c'è qualcuno che ancora prima che partissero le prime note già ballava questa musichetta a 8 bit. E come sapete, preannuncia una nuova puntata di Pensa Tech, il nostro appuntamento con il digitale e l'innovazione. Questa mattina parleremo di Arduino e ne parleremo oltre che con me, sentirete le voci di Elisabetta Tola, buongiorno. Buongiorno Damiana e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, abbonati e abbonate, sottolineerei. Giusto ricordarlo. E buongiorno anche a Marco Guglielmino. Buongiorno Damiana, buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, dicevo, questa mattina parliamo di Arduino. Chi sarà mai costui? Abbiamo parlato di robot, effettivamente il nome potrebbe molto ricordarlo, ma in fondo non ci andiamo molto lontano. No, non andiamo molto lontano, restiamo in un ambito che è quello della possibilità di programmare usando dei linguaggi, in questo caso dei linguaggi aperti, dei linguaggi open source, usando un microprocessore particolare che è appunto questo Arduino con un linguaggio aperto che è Processing. L'unione di queste due cose animare tutta una serie di oggetti, quindi qui è apertura totale alla fantasia. Questa scheda particolare viene dalle zone di Ivrea, ma ormai è famoso in tutto il mondo, c'è una fiera community che lo segue, che lo utilizza, che lo compra, si può comprare tra l'altro già di per sé, come dire, confezionato, oppure si può addirittura costruirsi la scheda, perché appunto in questo mondo open vengono date anche tutte le istruzioni e gli esempi di utilizzo fantasioso non mancano, Damiana, ma il punto forse più importante è che ci sono anche molte opportunità per imparare a utilizzarlo. Sì, infatti già in passato ne avevamo parlato parlando dei corsi di elettronica libera, quelli organizzati a Casalecchio tra gli altri anche dal professor Davoli. Sì, l'idea è proprio quella di imparare a giocare su queste cose, nel vero senso, nel senso originario del hacking, smontare e rimontare, vedere che cosa può uscire dalla programmazione che, giustamente, come ricordavi tu Elisabetta, è in linguaggio aperto, quindi insomma, le informazioni circolano e si può partire non proprio da un grado zero. A questo punto io vi proporrei di sentire il nostro Glossatech, che così mettiamo un po' di tasselli in ordine. Vi ricordo i nostri contatti, intanto per l'SMS il 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it e ovviamente vi ricordo i contatti anche sui nostri social network. E allora, la pagina Facebook di Radio Città del Capo e il nostro Twitter è @PensaTech con il CH. Raccontateci se voi avete mai provato a usare Arduino, ma anche che cosa vi ispirano le idee che sentirete durante questo pomeriggio, e se magari viene voglia di imparare e costruire qualcosa di nuovo. E allora, il nostro Glossatech di Lisa Lazzarato. A come Arduino. Arduino, a dispetto del nome proprio, è un oggetto elettronico. Per la precisione, è un microcontrollore, cioè un circuito stampato che ha un chip programmabile. Per rendere l'idea, lo si può paragonare a un computer vero e proprio, ma ridotto all'osso. E come i computer, ha degli ingressi, ai quali collegare ad esempio dei sensori, e delle uscite, a cui connettere altri dispositivi. Ma soprattutto Arduino è open source, il che significa che i progetti hardware e software necessari a costruirlo e farlo funzionare sono disponibili per chiunque voglia modificarli. È un progetto italiano, nato a Ivrea nel 2005, che ha avuto una grandissima diffusione, anche grazie alla sua economicità. Con meno di 100 euro si può acquistare un kit per cominciare. Cosa si può fare con Arduino? Si può dare libero sfogo alla creatività e all'inventiva. Qualcuno lo ha impiegato per innaffiare le piante di casa, per costruire uno strumento per analisi di biologia molecolare o per giocare con robot radiocomandati. Il sito a cui fare riferimento per trovare documentazione, idee e suggerimenti è playground.arduino.cc. Insomma, ricordavamo che Arduino arriva da Ivrea. Magari facciamo un po' di storia di questo oggetto. Un po' di storia di questo oggetto, diciamo, lo sentiremo dalle parole stesse del suo creatore, che non siamo riusciti a intervistare direttamente, ma che prendiamo in prestito molto volentieri da un bel documentario che è stato prodotto da Wired TV e quindi si trova naturalmente sul sito di Wired. Approfitto, Damiana, per dire che tutti questi link ovviamente li stiamo mettendo sul nostro account, sul nostro Twitter, sulla pagina Twitter di Pensatech, quindi troverete tutti i riferimenti lì, anche quelli appena citati al Glossatech. Massimo Banzi, creativo, diciamo pure che la parola forse più giusta, un appassionato di interaction design, era anche un docente, è di Ivrea appunto. Ivrea è un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza dell'Olivetti, dalla storia dell'Olivetti, dal personaggio Adriano Olivetti, quindi un territorio italiano come ce ne sono tanti in Italia, forse è anche bene ogni tanto ricordarlo, tanti territori che hanno visto uno sviluppo incredibile grazie a una combinazione di fattori, quindi un territorio che ha risposto bene, diciamo così, alla idea, all'originalità di un personaggio. Olivetti ha sviluppato una serie naturalmente di attività molto importanti. Banzi è molto più giovane, Banzi è un nostro contemporaneo e sostanzialmente cresce in questo territorio, si appassiona alle questioni di circuiti e anche di giochi elettronici sviluppati negli anni 70. Torniamo sempre al fatto che la creatività è un dato importantissimo, al gioco anche, e insomma quando sta insegnando in una scuola superiore nelle zone, appunto all'istituto per l'appunto, si dedica proprio all'interaction design a Ivrea, sviluppa un prototipo di Arduino, cioè pensa a uno strumento che possa essere usato didatticamente per far sì che i ragazzi non solo studino che cosa vuol dire costruire qualche strumento elettronico, ma possano proprio farlo. Ed è lì che nasce Arduino. Ma se posso aggiungere una parola a Damiano, la cosa importante è che poi c'è una community, come spesso accade, che adotta Arduino, ed è la community degli artisti, perché Arduino è capace di essere facilmente utilizzato nella creazione di installazioni artistiche, cioè riesce a far suonare degli oggetti particolari. Nel video pubblicato da Wired TV, di cui appunto ascolteremo fra poco un estratto, per esempio c'è un maker che ha usato Arduino per far suonare il manico di una lampada e farla diventare una specie di tastiera. E quindi questo per dire, basta questo piccolo processore, una capacità ovviamente originale di immaginare cosa un oggetto può diventare, e Banzi fa esattamente questa cosa. Gli artisti iniziano a usarlo, inizia a girare per il mondo, lui capisce che questa cosa ha una potenzialità molto più elevata e quindi va fuori dall'ambito didattico e inizia anche a produrlo. Aggiungerei questo anche la classica arpa fatta con le luci digitali, insomma le luci laser, scusate non mi veniva il termine, utilizzata da diversi musicisti fin dagli anni 80. Ecco, Arduino è la base anche di questo. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori attenti alla musica ricorderanno performance e filmati di musicisti che l'hanno usato, quindi io li invito anche a ricordarcelo, a contribuire con la loro memoria a questa ricostruzione. Vi ricordo di nuovo i nostri contatti, il 348-7649-289 per l'SMS, la mail diretta a @radiocittadelcapo.it, su Twitter @pensatech con il CH. A questo punto andiamo a sentire proprio direttamente il documentario che citava Elisabetta e le voci appunto che ci parlano di nuovo di Arduino. Le prime voci che sentiamo, lo diciamo per chiarezza perché sono due voci diverse, sono quelle di due makers. I makers sono una comunità importantissima nello sviluppo dell'open source in generale, perché hanno questa creatività di cui abbiamo parlato, cioè la capacità di immaginare quali usi, anche diversi da quelli per cui sono stati creati, certi oggetti possono avere. E sentiremo appunto le prime voci, le prime due voci sono quelle di due makers che hanno usato Arduino per fare delle cose diverse. Una persona che all'inizio studia elettrotecnica sicuramente ha una mentalità adatta a usare Arduino. Io con Arduino ho pensato di fare tante cose, da un sistema per innaffiare l'orto, misurando in vari punti l'umidità che c'è nell'acqua e attivando vari sistemi elettrovalvole, a un controllo di trazione su una macchinina radiocomandata che stavo costruendo un po' di mesi fa con un motore a scoppio. MacGyver, raggi laser che si vedevano in supercar, li volevo anch'io. Quindi quello di cui avevo bisogno lo trovavo in casa e lo cannibalizzavo brutalmente. C'è Arduino e un accelerometro posto proprio qui sotto, un sensore di tocco. Appunto, questo funziona da tastiera senza tasti. Quindi questo, combinato al movimento, combinato a tutte le altre variabili, crea un suono abbastanza organico. L'idea è nata da un manico di scopa. Battevo il tempo con le dita sopra il manico e dicevo: come sarebbe bello se questo manico rispondesse in modo sonoro. Faccio un po' di ricerche su internet e capisco subito che è la facilità di programmare Arduino quello che stavo cercando, e in verità illuminazione è quello che ho cercato sin da quando ero bambino, quindi perché no? Consulti la rete e trovi quasi sempre qualcuno che ha avuto prima di te lo stesso problema o un problema simile. Questo sono i makers, le persone che non si accontentano e vogliono oltrepassare questo limite, e oltre a farlo vogliono anche condividere la modalità in cui ci sono riusciti. Scheda grande come un pacchetto di sigarette, all'interno troviamo un microcontrollore che è, appunto, in parole povere, un computerino molto, molto limitato, molto semplice, che però fa molto bene il suo dovere. Il computer prende le decisioni in base a quello che succede nel mondo esterno e attua il tutto attraverso i pin fuori, attraverso processing, che è il linguaggio che usa Arduino, per dire A è uguale B più C, io basta che scriva A è uguale B più C. Ti chiedo scusa, c'è davvero molta sperimentazione e molta passione in tutto questo, veramente dal partire dalle cose più semplici, più quotidiane e sperimentare. Sicuramente, pensa al manico di scopa che emette suoni, in effetti ci vuole veramente della fantasia. D'altro canto, mi sembra di dire, lo dico un po' ironicamente, ma in realtà non è tanto, neanche tanto diverso da così, sono anche degli strumenti di contenimento questi. Noi immaginiamo, appunto, dei bambini che girano per la casa e tendono a smontare tutti gli oggetti per cercare di capire come sono fatti, e come sentiremo tra poco dalla voce stessa di Massimo Banzi, il creatore, il papà co-creatore di Arduino, è quella stata un po' l'inizio, no? Cioè il tentativo da parte di chi aveva questo bambino terribile in casa di fargli costruire qualcosa invece di smontare tutti gli oggetti. Insomma, lo spirito è quello, naturalmente, è di andare oltre all'uso di un oggetto che ci viene venduto per un uso specifico, che invece noi possiamo trasformare in qualcos'altro. E allora andiamo a sentire direttamente la voce del papà di Arduino, appunto, che voleva sistemare la genialità e anche la creatività dei piccoli seguaci. Questo è un kit della Braun che facevano negli anni 60-70, che si chiama Electron, che aveva fatto Braun per insegnare essenzialmente ai bambini come funzionava l'elettronica, a fare dei circuiti elettronici. Tutti i componenti sono messi dentro in questi cubetti di plastica magnetici, per cui il kit ha questa base d'acciaio dove magnetizzi le cose e poi le attacchi. L'altra cosa che secondo me ha fatto in maniera un po', diciamo così, subliminale, è che ha un po' stimolato anche la mia passione per il design, perché alla fine questo oggetto è stato disegnato da Dieter Rams, che è questo designer tedesco che negli anni 60-70 era il designer di Braun. Credo che Arduino cerca di stare perlomeno nelle leggi sulla semplicità, l'idea di costruire e poi capire. Io avevo preso questa abitudine di smontare tutto. A un certo punto credo che abbiano deciso che era una buona idea di regalarmi una cosa per costruire. La ZX Spectrum fa parte di quel mondo della rivoluzione degli home computer inglesi dei primi anni 80. Questi computer qui, era chiaro che tu li prendevi e andavano programmati. E Arduino, quando ti arriva, tu lo sai chiaramente che lo devi programmare, che non è una cosa che tu compri e poi, che ne so, scarichi da internet dei programmi e li carichi, scarichi il sorgente, chiaro, non lo copi più a mano santa dalla rivista inglese, la copi da un sito, però comunque dentro nel tuo ambiente di Arduino vedi il sorgente del programma, schiacci e Arduino lo trasforma e lo carica nella scheda. Non esiste la fabbrica Arduino, perché non è che c'è proprio il sistema con il famoso tetto, quello a triangoli che si vede nei cartelli stradali, no? Quelle fabbriche lì sono un po' sparite. Essenzialmente c'è questo signore che si chiama Pruzzese, che è il padrone di questa azienda, che lui vive il circuito stampato quasi come se fosse una forma d'arte, e poi ci tiene per esempio ad avere tutte le macchine che ha, sono tutte italiane. La prima volta che ho sentito parlare dell'Arduino sembrava quasi un gioco, e venivano da me per fare dei piccoli campioni che ogni settimana cambiavano. Ha portato dei programmi produttivi da paura. Di fronte a questo tipo di vendite che crescevano, Arduino stesso ha pensato, nella persona di Gianluca Martino, a lavorare sia sulla funzionalità che anche sulla bellezza estetica della scheda. Loro erano partiti con un blu non definito, e a noi tutte le volte veniva un blu sempre diverso l'uno dall'altro. Per fare il colore ci abbiamo messo un anno. All'inizio sembrava un po' un gioco. All'inizio sembrava un po' un gioco, in effetti, e poi invece il gioco diventa un oggetto che fa economia, ed è un po' anche questa la traccia che vorremmo sottolineare. Noi a Pensatech ci teniamo molto a così ragionare su quanto la tecnologia, anche nelle sue forme più creative, diventi un fattore di sviluppo economico. E su questo, Damiana, se posso, da quanto diceva Massimo Banzi, abbiamo sentito la sua voce, poi quella di Pruzzese, che è appunto questo signore di Ivrea che sostanzialmente prende Arduino e lo fa diventare un oggetto un po' più standardizzato, no? Sceglie un blu e ci vuole un anno per scegliere il blu giusto per questa scheda. Il punto qual è? Che Banzi ci tiene moltissimo a sottolinearlo, lo racconta un po' in tutte le interviste che fa e in questo documentario che appunto ricordo è sulla pagina di Wired TV, e l'abbiamo twittato, quindi lo trovate dal nostro Twitter. Banzi dice: voglio fare un prodotto made in Italy, voglio usare le competenze che esistono. Ivrea c'erano queste competenze perché l'Olivetti le aveva create sul territorio. Quando l'Olivetti chiude, molte di queste competenze si reinventano e molte di queste persone finiscono dentro il progetto Arduino. Il punto è che è un buon esempio di come un distretto industriale che non ha più la vita, diciamo, tipica del periodo industriale può invece reinventarsi in uno sviluppo economico, in una produzione che è più contemporanea. Questo secondo me è un esempio importante da tenere anche per altre realtà italiane, anche per le nostre realtà emiliane, e credo che il punto fondamentale sia anche questa cura per l'oggetto. Banzi ci tiene a dire: no, è estetica, ma perché è la qualità di questo oggetto, che è tutto un prodotto made in Italy, quindi anche un motore di lavoro, non soltanto un motore di creatività. Sì, tra l'altro Arduino ha nella sua filosofia anche quella dell'apertura, quindi in realtà è anche di stimolo poi alla creazione di altri progetti. Guardo dalla pagina di Wired.it, ancora abbiamo trovato un altro articolo che parla di Arduino, i 50 progetti per esempio di Arduino, perché in realtà se ne possono fare molti di più. Tra questi ci sono anche diverse stampanti 3D, di stampanti 3D ne abbiamo parlato diffusamente anche qua a Pensatech, che è sicuramente una dei settori di sviluppo della tecnologia, che va dal manifatturiero all'artistico, sicuramente può arrivare anche fino alla ricerca, persino medica. Ecco, Arduino ha un ruolo anche in questo. Poi si arriva invece anche alle cose più ludiche, diciamo, l'importanza anche del gioco nel mondo di Arduino. Ecco, tra questi progetti c'è anche un microfono etilometro, insomma, come i microfoni che stiamo utilizzando adesso e possono diventare uno strumento per vedere se è il caso di mettersi alla guida oppure meglio di no. E poi altri veramente oggetti veramente fatti per gioco, come può essere un ombrello che suona con le gocce che gli cadono sopra. Ovviamente il gioco di Arduino è anche quella di fare gocce che suonano in maniera differente. Insomma, questo veramente per parlare di quelle che sono le applicazioni più alte e le applicazioni davvero più ludiche. Più ludiche, infatti, però appunto abbiamo detto i makers sono protagonisti. protagonisti. La prossima voce che sentiamo è proprio quella di un maker, Gianni Favilli, che utilizza Arduino per una serie di controlli domestici, diciamo così. Anche questo è un dato importante, si parla tanto di domotica, la domotica tra l'altro nelle sue forme più sofisticate è anche molto costosa. E Gianni Favilli, che ha anche un suo sito, giannifavilli.it, anche questo lo twittiamo tra un attimo, invece racconta a Marco Boscolo come ha utilizzato Arduino per controllare casa sua. Come mai ti sei interessato a Arduino e la domotica insieme? Da dove nasce questa curiosità? La domotica mi ha sempre appassionato fin da quando ero ragazzino, e poi tramite passaparola ho scoperto questo metodo di prototipazione open source di nome Arduino, e da lì ho cominciato a studiare forum, blog, ho comprato un paio di libri anche dello stesso Massimo Branzi, e da lì ho cominciato, si inizia con i primi sketch, che sono i primi schizzi del codice di programmazione, a vedere come se si riesce a misurare la temperatura e vedere la luminosità con delle fotoresistenze, e poi successivamente uno acquista dei relè che funzionano tipo stadio pilota per comandare, penso, l'apertura dei cancelli o l'accensione di una presa elettrica, delle luci, e da lì piano piano lo sketch diventa sempre più grande. Attualmente sto integrando un sistema dove Arduino comunica su un server PHP, ovvero un server web, e invia i dati lì, e quindi si possono consultare online i dati della nostra abitazione. Da qui tu praticamente sei in ufficio la mattina e vuoi sapere com'è la temperatura a casa, sì, tua, quanta luminosità c'è, e puoi, sì, collegarti a un server che ti dice sì, com'è la situazione. Praticamente sì, oppure posso decidere di accendere delle luci o il riscaldamento, magari d'inverno può essere comodo. Uno sta fuori casa e per delle ore, poi magari vuole tornare a casa, alla casa calda, e può attivare il termostato della caldaia tramite un telefonino, che basta che abbia una connessione UMTS. Ah, quindi non solo attraverso il computer che si collega al server, ma anche con lo smartphone io, sì, posso fare, sì, questa cosa, sempre attraverso, sì, tecnologia open source? Tutto open source, completamente open source. Dicevi però che a parte le schede di Arduino comunque bisogna comprare dei relè, quindi in qualche modo degli interruttori che tu, sì, da remoto puoi far attivare con i protocolli che hai messo a punto. Quanto costano questi relè? Allora, variano i costi, sono di tutte le componentiste sono abbastanza basse. I relè costano 6 euro, faccio un esempio, un termometro costa un euro e mezzo, una fotoresistenza costa un euro, una cosa che costa un po' più di tutti è un sensore a induzione elettrica che può essere utilizzato per tenere sotto controllo i consumi elettrici dell'abitazione, quello costa 14 euro, faccio un esempio, no? 14-15 euro, però comunque sono alla portata di tutti. Se si pensa che Arduino con una scheda di rete che si chiama Ethernet Shield, il costo complessivo si aggira intorno a 50-60 euro per uno, cioè non è tanto. Tu hai mai fatto il conto fino adesso di quanto, tra virgolette, ti è costato il tuo sistema di controllo della tua abitazione in remoto? Diciamo 80-90 euro, se paragonati ai costi delle grosse imprese che vendono dispositivi del genere, è un decimo. E invece quanto ci hai lavorato tu? Quanto tempo ci hai dedicato? Io lo faccio per hobby, quindi a tempo perso, quando ho voglia e tempo per farlo. Comunque sì, ci ho impiegato tanto, anche perché comunque è una cosa che mi piace. Attualmente ci sto lavorando, posso dire che è 2 settimane che sono come stacco dal lavoro. Torno a casa e mi metto a studiarmi Arduino, perché voglio finire questo progetto come in mente. E qual è? È questo qui, di rendere Arduino alla portata di tutti, ovvero il sistema domotico dell'abitazione alla portata di tutti, utilizzando uno sketch unico, cioè senza bisogno di dargli grosse inizializzazioni, uno sketch generico, no? Che può essere idoneo per qualsiasi tipologia di utente, comandato sempre da un server web dove ci sono PHP, MySQL, un server web Apache, anche quello configurabile al 100%. Quindi non c'è bisogno di che una persona abbia grosse competenze in programmazione di Arduino. Basta che carichi lo sketch su Arduino e tramite interfaccia web si può configurare il suo Arduino, le sue prese, i suoi sensori, i suoi adattatori, come meglio crede. Cioè, in qualche modo, come creare una specie di interfaccia che permetta anche a chi non conosce l'elettronica di programmare Arduino per fare quello che vuole. Perfettamente, sì. Parole povere, è questo il concetto. Ecco, ma tu per a parte questo progetto che è nuovo, che stai portando avanti, per realizzare le installazioni che hai fatto a casa tua, hai ovviamente, confessiamolo, hai un background informatico che ti permette di lavorarci. Sì, il background informatico ce l'ho, poi ci deve essere almeno un minimo di background elettrotecnico. Che faccio un esempio, se uno si mette a mettere un attuatore, che potrebbe essere questo relè, su una presa elettrica dove c'è tensione, l'energia elettrica dell'abitazione a 220 volts, è pericoloso. Quindi quando si va a mettere le mani dove c'è alta tensione, serve o un installatore o una persona che abbia delle competenze adeguate a fare determinati lavori. Insomma, bisogna stare attenti anche quando si utilizzano queste tecnologie. Sicuramente sì, abbiamo calcato molto sul fatto che siano anche dei giochi, però insomma, quando si entra poi soprattutto in questi temi, insomma, un'applicazione che non è semplicemente l'accendersi della lampadina, insomma, bisogna stare attenti. Questo è importantissimo, sottolineiamo, non vorremmo essere tacciati di induzione al rischio domestico, che tra l'altro è uno dei rischi più diffusi assolutamente nel nostro paese, è una delle situazioni che più causa danni e insomma feriti e situazioni di pericolo. Quindi no, non è che dovete mettervi con le mani dentro le prese di corrente, state molto attenti al fatto che i bambini non lo facciano, ovviamente. Quindi giustamente Gianni Favilli, che ringraziamo, ci ricordava l'importanza di avere anche un minimo di nozioni di elettrotecnica, comunque di farlo con delle persone che sappiano come muoversi nell'ambito dei circuiti, questo è fondamentale. Dopodiché però spazio alla fantasia, Damiana. Qui ci sono anche degli appuntamenti che possiamo dare per qualcuno che si è incuriosito. Sì, tra l'altro, detto ciò, un sistema di domotica casalingo, 80-90 euro, insomma, il mio sogno. Le descrizioni di Favilli erano molto affascinanti, l'idea di controllare da casa il proprio sistema di riscaldamento e magari tornare a casa dopo una lunga assenza, senza trovare la casa che, insomma, in cui ci sono 4 gradi e per riscaldare ci vuole molto tempo. Sì, insomma, è un bel futuro, insomma, quello che si profila. Ricordiamo gli appuntamenti. Allora, dove si può imparare a utilizzare perlomeno i rudimenti di Arduino? Avevamo già citato il non corso curato tra gli altri dal professor Davoli, questo è alla Casa per la Pace La Filanda. Gli appuntamenti non sono sempre regolari, quindi io vi invito a visitare i siti raspibo.nonsiamopirati.org oppure raspibo.offpiccina.net. infatti, proprio la off Piccinas è una delle organizzatrici di questo corso, ricordiamolo, insieme anche a Raccatta RAE, perché Arduino, insomma, nel suo intento di liberare l'elettronica, ha sicuramente anche un ruolo in quello che è il riutilizzo di componenti elettronici che magari altrimenti invece finirebbero nell'isola ecologica. Invece un altro posto, questo non in provincia ma direttamente a Bologna, in cui è possibile imparare ad utilizzare Arduino, è l'Hub Store di Via Marsala, curato dalla Libera Università delle Arti. L'appuntamento è per il 13 e 14 aprile, quindi domani e dopodomani, un full immersion proprio di Arduino. Il corso, che comprende anche il kit di starter con Arduino, costa 200 euro. Per l'iscrizione basta recarsi proprio direttamente nella sede sede di Via Marsala all'altezza di Piazza San Martino. Insomma, questi gli appuntamenti. Noi a questo punto possiamo sentire magari un pezzettino dell'intervista fatta da Piero Ingrosso proprio al docente del corso di Arduino del Libera Università delle Arti. Lui è Andrea Sartori. Allora, noi siamo in collegamento telefonico con Andrea Sartori, che vestirà il ruolo di docente nel prossimo weekend, il 13 e il 14 aprile a Bologna, con un corso dedicato ad Arduino. Arduino è la piattaforma hardware low cost, che è programmabile, manipolabile, per cui è possibile creare dei circuiti per quasi ogni tipo di applicazioni, soprattutto in ambito di robotica e ad automazione. Io non so se questa prima definizione che ho fatto di Arduino è corretta, Andrea, vedi tu se vuoi correggermi o se vuoi in qualche modo precisare. E questo Arduino, a cosa serve Arduino? Ma sì, intanto buongiorno a tutti. Direi che quello che hai detto, bene o male, fissa bene il concetto. Arduino è questa piccola schedina che costa relativamente poco, intorno ai 20 euro. Ed è un piccolo computer, molto piccolo, poverino, molto stupido, perché non è un computer come quelli che usiamo tutti i giorni, con il monitor, la tastiera, i gigabyte, eccetera, eccetera. Un computer molto semplice. 9:30 minuti, e adesso il momento delle notizie locali. Un saluto a tutti, un saluto da Pensatech. Ciao a tutti, buona settimana. Ciao.